Stai su Radio Wombat e questa è Radio Wombat 8 Hertz. E buonasera, buonasera amici ascoltatori. Sei su Radio Wombat e questo è 8 Hertz. Stasera puntatina particolare in compagnia di un ospite che si chiama Pietro Michi e con lui si parlerà esclusivamente della sua etichetta che ha questo nome che si chiama Biodiversità Records e tutto insomma ci farà ascoltare le sue produzioni e anche ci spiegherà un po' il contesto, appunto si diceva prima, il perché e il per come. Ciao Pietro. Ciao e innanzitutto grazie per ospitarmi qui a Radio Wombat. E, vabbè, come hai introdotto te, siamo qui per parlare di Biodiversità Record, un progetto che compie da poco un anno. Sì, infatti avevo letto che le prime cose credo che siano a fine 2016, se non sbaglio, le prime produzioni. E addirittura questo, diciamo, non è mai stato veramente rivelato. Uno va, se va a snocciolare un pochino su Discogs o così, scopre che prima di esistere l'etichetta esistevano già le uscite, che poi sono entrate in catalogo. Ah, ecco. Perché le prime due uscite erano lavori in proprio, infatti sono tutti, diciamo, firmati da me, che poi ho infilato nel catalogo quando ho aperto l'attività. Quindi 11 dicembre dell'anno scorso e ho tirato dentro un po' di roba. Allora, ora mi torna, infatti. E, tra l'altro te suoni anche come fossa del rumore, giusto? Sì. E dopo ci ascolteremo le cose. Intanto diciamo che avete ascoltato Gwenter Rahler, che è questa giovanissima compositrice, produttrice, sound designer, DJ, nata a Bologna, si chiama Irene Cassarini, diciamo, è della classe 1995. Prima di addentrarci un po' prima di continuare su di lei, se vuole aggiungere Pietro qualcosa, vorrei in realtà chiedergli appunto una cosa che può sembrare scontata per lui, come il perché del nome Biodiversità. E poi tra l'altro, se andate a vedere il Bandcamp, è tutto un po' a tema, diciamo, naturalistico come copertine, come un po' senso della cosa, per quanto in realtà la musica sia elettronica, elettroacustica, dall'ambient al dark ambient al noise anche e a roba un po' più ritmata, come avete sentito con Gwenter Rahler. Allora, beh, ovviamente sì, Biodiversità richiama subito l'immaginario della natura. Nome infatti non scelto a caso. Anzi, in realtà nato un po' a caso, perché eravamo a tirar giù, come al solito, quando si inizia un progetto, vari nomi così, un po' dal nulla, e Biodiversità è quello che mi è rimasto più in testa. Primo punto del perché Biodiversità è, come si è detto adesso, motivo per cui ci sono vari generi musicali all'interno dello stesso progetto che rende l'idea di diversità. Roba un pochino più elettronica, diciamo ritmata, un pochino anche più pop, da quella più sperimentale. Diciamo il fil rouge c'è, molte persone mi dicono questo lo riconosco come un lavoro di biodiversità, ma io dico ah cavolo, allora sto facendo bene il mio lavoro. Che comunque il fil rouge è un pochino questa visione eterea della musica, questi ambient, questi spazi un po' dilatati, però all'interno di queste poche linee guida e il tema naturale, gli artisti che sono invitati a suonare all'interno dell'etichetta hanno carta bianca, diciamo, possono muoversi un pochino come vogliono all'interno, come generi musicali. Cioè, c'è forse una sorta di imprinting che ricevono dal fatto che l'etichetta si chiami Biodiversità, no? Mi sembra che tanti personaggi appunto che hai prodotto, per realtà anche come a livello di nomi e di suoni si rifacciano molto a qualcosa a che fare con la natura, diciamo, anche con le sfaccettature del suono, che parte da una sorta di elemento naturale, diciamo. Non so se ci hai fatto caso, un flash mio o deve essere così. Allora, non deve veramente essere così, nel senso non è nulla di realmente programmato al tavolino. Alcune di queste persone che hanno collaborato, di cui alcune di cui sentiremo anche brani stasera, mi hanno anche fatto notare, cosa che mi ha divertito tanto, che proprio la loro uscita sulle mie etichette è stato un pretesto per parlare di determinate cose, anche solo con suoni o nomi, cioè nessun messaggio politico, chissà cosa, un pretesto per parlare di natura o temi naturali che a loro toccavano particolarmente. Esatto. Di Gwenther Rahler volevi aggiungere qualcosa? Allora, è uscita per Ecotono, che è questa ultima, uno dei, forse il penultimo lavoro che hai prodotto, che è una sorta di compilation, giusto? Sì, è una compilation uscita in digitale completamente gratis, cose spero di poter fare il più possibile. Il possibile. E racchiude vari artisti con cui o ho avuto esperienze in qualsiasi campo dal punto di vista artistico, che può essere la persona che mi ha fatto il master a quel pezzo, la persona con cui ho fatto un DJ set. Insomma, è stato un modo un po' per racchiudere anche persone che non hanno mai fatto un'uscita vera e propria, ma che hanno interagito con la mia realtà. E se no, anche un modo per aprire nuove porte. Cosa anche per l'appunto con Gwenther, io prima o poi riuscirò a infilarla in un'uscita, spero, in qualcosa, anche se almeno dai miei occhi sta scoppiando, sta facendo delle grandissime uscite, da poco anche distribuita dalla Lobster Theremin, quindi comunque da un'etichetta che io mi guardo da lontano. E, vabbè, comunque i suoi lavori li consiglio a prescindere da quello che avete appena sentito, spazia da molti generi, è una persona che ho riconosciuto anche nei due live che ho sentito suoi e nel lavoro che ha fatto per me, di una dinamicità unica. Lavora veramente, veramente bene e, diciamo, senza imporsi dei canoni, mettiamola così, dei parocchi. Quindi sentirete molta roba molto diversa da lei. Insomma, si diceva quindi appunto il nome di biodiversità che ricorda un po' suoni della natura, ricorda appunto la bioacustica, la biologia, insomma tutti questo lato della vita, diciamo. E tra l'altro, appunto, un pezzo che mi ha colpito è quello di Sbrilli Sbratti, che anche lei, perché anche lei è una ragazza, credo, giovane pure lei, non sono sicuro, comunque Alexia Robbio di Roma, e gli hai prodotto questo disco che si chiama, ha un bel titolo, Rave in the Shell. Allora, anche qui, questo è uno di quei casi in cui una persona mi ha detto non vedevo l'ora di parlare di determinati argomenti, adesso posso farlo. Peraltro con un alias, non dico creato ad hoc perché qualcosa era già uscito, però un alias che non è il suo principale, mettiamolo così, che lei suona anche con il suo nome e cognome. Questo lavoro è il nome scelto completamente da lei. Diciamo reminiscenze rave, mettiamolo così, è una persona che ha vissuto e vive tuttora anche in questa realtà, soprattutto a Roma, che comunque è ancora un po' più attiva che a Firenze, e senza voler mettere... Io sono una persona che sta abbastanza al di fuori da questo mondo, quindi non voglio figliarmi poi tutti quelli che mi dicono invece è attivissima, vabbè, ci sta. Ho perso il punto del discorso. Volevi parlare di lei, avevi trovato finalmente l'occasione. Sì, finalmente ha trovato l'occasione, voleva parlare per l'appunto di inquinamento nel mare. C'era un riferimento anche poi nella cover, però tutto molto velato, come dicevo prima, non esiste una critica sociale, poi magari dopo il pezzo parleremo anche meglio di questa... Anche in modo un po' giocoso, il pezzo che stiamo per mettere si chiama Coral Skeleton, che sarebbero le lumache di mare, e poi ho letto nel Bandcamp che un po' c'è una frase che credo sia anche all'interno del disco, ma sicuramente la puoi confermare. Now we are deep into the sea, are you ready for underwater rave? Sì, quello era più che dentro. Mi ricordo se c'è anche da qualche parte dentro. Di sicuro è stata la cosa promozionale. Quando abbiamo fatto la prima grafica che, diciamo, preannunciava questo nuovo progetto, venne l'illuminazione di usare queste parole, perché quello che andiamo a sentire poi anche sono dei suoni che hanno, diciamo, un diretto collegamento alla musica rave e trance, okay, però molto ovattati e molto, diciamo, come se tu li stessi ascoltando sott'acqua, diciamo, questa era la mia impressione. Esatto. E ora ce l'andiamo ad ascoltare, se vi ha incuriosito tutto ciò, Sbrilli Sbratti con Coral Skeleton. Thank you. Sbritti sbratti, Coral Skeleton, appunto rimanendo un po' a tema naturalistico, vorrei chiederti appunto il tuo rapporto con la natura e quanto influenza le tue produzioni, insomma, che sono prevalentemente elettroniche, quindi c'è anche questa sorta di aspetto che sembrano contrapposti, ma sotto sotto secondo me si può farli navigare insieme. Allora, il mio rapporto proprio personale, partendo poi quindi da come è nata l'idea, è il mio percorso di studi. Quindi vari anni nelle scienze agrarie, passione per la biologia, adesso interesse per l'entomologia, quindi comunque sempre convissuto in qualche modo sia con la natura sia con quella che è una delle macchine più distruttrici per la natura, che è l'agricoltura. Quindi vedendo sia il lato bello sia il lato brutto di quello che è, diciamo, il clima in questo periodo storico, la natura, eccetera. E nasce in realtà con una passione più estetica. Come dicevo prima, non esisterà mai un... mi sto allargando troppo. Diciamo, per ora non ho mai voluto affrontare il tema in modo diretto. Biodiversità si propone di, far arrivare all'ascoltatore un carico di bellezza naturale. Perché, diciamo, quando uno si pone, di sicuro ci sono temi ecologici, poi farò un piccolo appello su cosa intendo anche con ecologico, ci sono dei temi, diciamo, naturalistici, ecologici, per quelle si intende al giorno d'oggi, no? Tipo niente inquinamento, riscaldamento globale, di sicuro ci sono questi, però il mio obiettivo non è spiattellare in faccia questi problemi e voler dire facciamo schifo o cose del genere, quello è proprio l'ultima cosa che mi viene in mente. La mia arma è un po' quella di ritirare fuori quello che è più semplice da tirare fuori dall'uomo, cioè l'egoismo, e dire ti piace tanto questa natura, non farlo tanto per uno stimolo naturalistico, perché alla fine l'uomo, come qualsiasi altro animale, si nutre e deve vivere la propria vita. Fallo più per un sentimento di egoismo verso questa bellezza e non voler perdere tutto ciò che c'è di bello nella natura. Quindi più un sentimento di fascino verso la natura voglio tirar fuori, non uno di continuo, diciamo, come quando succede, uno apre la pagina, il clima sta cambiando, moriremo tutti. La prima cosa che ti viene non è essere più proattivo, anzi ti abbatte. Certo. Dal mio punto di vista invece guarda quanta bellezza c'è, quindi prova, no, a reagire con una forza più positiva, mettiamola in un modo un po' new age, e poi unirlo con il concetto di ecologia, non inteso tanto quanto per appunto salvaguardia dell'ambiente, per quanto ci sia anche quello ovviamente, ma inteso proprio come ecologos, no? Come partendo proprio da... io latino non l'ho fatto, quindi latino greco che sia, quindi perdonatemi, però logos ed eco sono due parole che hanno vari... nell'italiano moderno possono avere più accezioni, però quella che mi è piaciuta di più, a cui ho voluto più attingere, è con eco ambiente e con logos dialogo, e portare questo al di fuori del concetto naturale e biologico che abbiamo noi di fronte alla parola ecologia, ma portarlo proprio in un contesto ambivalente, ecologia culturale, politica, un dialogo tra vari ambienti. E questo anche si unisce con la biodiversità e quindi con il dialogo tra più esistenze diverse su questo piano. Tutto questo un po' anche tradotto, dovrebbe essere tradotto in materiale sonoro, insomma, no? Per cui, cioè, è la scelta anche difficile che questi concetti possano essere anche equiparati a dei suoni... sia elettronici o elettroacustici, appunto, che tu proponi e produci, diciamo. Molto interessante, ecco. Anche perché, appunto, leggevo prima due sciocchezze sulla bioacustica, che è proprio un'indagine sulla produzione del suono e sulla ricezione degli animali, inclusi gli esseri umani. Per cui, insomma, anche questo discorso naturale può essere sulla natura e sull'ecologia, può anche essere applicata la musica come valore in più per provare alcuni tipi di esperienze che sono vicine alla natura. Sì, cosa che non ho mai fatto nelle mie uscite, diciamo, non ho mai fatto, come si può dire, non ho mai chiesto a uno fammi questo, ok? Cioè, la bioacustica non è una cosa che ho mai affrontato faccia a faccia. Okay. Magari sarebbe anche bello, non so come dire, è una ricerca secondo me molto difficile. Probabilmente una persona che si intende di bioacustica è una persona che, diciamo, non è il primo che passa e che sì, fa musica. O non farebbe mai queste produzioni. Non lo so, magari potrebbe anche, non lo so, ora, però appunto non, certo. È, non è il mio. Certo. E senti, ora mettiamo Catatonic Silenzio. Silenzio, che è questo, anche lui produttore. Produttrice anche lei. Ah, produttrice anche lei, quindi tutto al femminile per ora. Sì. A caso, non ho fatto una scelta, diciamo, improntata su quello, era proprio a caso. Milanese. Tra l'altro ho letto di interessante che ha una sua etichetta che si chiama Cyberspeak Music Collective. Tra l'altro tra un po' uscirà il loro secondo disco. Per la loro etichetta o per la tua? No, per la loro. Ora stanno muovendo le acque per la seconda uscita. La prima l'hanno fatta poco prima di fine anno ed è improntata più sull'elettronica, un bel po' più dura della mia, infatti le affinità, diciamo, sono solo sull'ambito elettronico. Okay. Però ora ce l'andiamo a ascoltare. Tra l'altro mi è piaciuto molto quando l'ho sentito pochi giorni fa. Catatonic Silenzio, il pezzo è la prima traccia del disco, che si chiama Teris Variata, e la traccia si chiama Ligodium Hydrophyllum. Buon ascolto. Parte lentamente, ma parte. Thank you. Questa è quasi elettronica rituale, diciamo, un pochino più, parecchio più oscura rispetto alle altre. Come ti sei avvicinato a lei? Allora, come molte altre, diciamo, persone all'interno diciamo, tutto questo progetto che porta avanti, ora dico amici, però con amici non si deve pensare amici di amici e quindi sono tutti amici. Sì, sì, sì. In realtà sono conoscenze nate proprio in quanto c'era questa mia esigenza di lavorare insieme. Persone che ho conosciuto sia tramite l'internet, sia tramite concerti live. Penso che Guantanamo la prima volta, non sapevo che fosse, mi sarò vista in un live la prima volta. Che è forse il modo migliore per vedere sì, qualcuno. Per rendersi conto, ascoltare anche, di come suona, di come potrebbe suonare per un tuo live, se vuoi vederla da mente da imprenditore. E, mi sembra con Catatonic semplicemente stato un messaggio su Facebook. Ho detto, sento, ascolto la tua roba, forse anche lei l'avevo già sentita a una festa. Mi piace quello che fai, ti interesserebbe? E lei, guarda, io già conoscevo questo e quest'altro, e quindi subito ci siamo trovati. E come con altre persone, poi comunque si è stretta anche un legame che al di fuori dell'etichetta, in generale chiamiamolo artistico, comunque di condivisione artistica. E anche con lei c'è un progetto che sta andando avanti, di cui sentirete parlare probabilmente in estate. E fatta venire qua a Firenze a suonare, anche se altre realtà l'hanno chiamata, comunque ho contribuito a farla approdare un pochino qui nel territorio di Firenze, e questo è quanto. Ok, e adesso tra le varie cose che ci proponi, sempre nella compilation della quale abbiamo sentito il primo pezzo. La compilation si chiamava, oddio, Ecotono. L'ho persa, Ecotono. Risulta anche l'ormai ultramesso qua a 8 Hz Lampreda, questo batterista fiorentino Simone Vassallo. Abbiamo parlato più volte appunto all'interno della trasmissione anche con Federico Fragasso, anche perché lui proprio nasce come progetto sotto, diciamo, la sua ala, perché è uscito per Ur Suoni, cioè l'etichetta di Federico, e appunto è forse un connubio particolare il fatto che risulti nella tua compilation, visto che ha sonorità che ovviamente ci stanno perfettamente, ma sono molto più acustiche rispetto all'elettronica che ci vuoi fare ascoltare. E è stato un connubio anche perché nel festival che c'è stato, quanto tempo fa ormai? Un mese fa. 15 dicembre. Al Next Emerson, in cui appunto c'era mezzo festival gestito da Federico e mezzo festival gestito da te, c'era comunque Lampreda che ha suonato lì, prodotto da Ur, e poi si ritrova, lo ritroviamo anche prodotto in una tua compilation. Tra l'altro è stato divertente perché Federico non l'aveva neanche capito. Quando io ho chiamato Simone a suonare, lui non ha fatto domande in realtà, no? Poi dopo un pochino, quando stavamo pensando ai brani per presentare il festival, lui mi fa vedere cosa aveva scelto per Lampreda, e ha detto, metti anche quello, è uscito a me. Lui, è uscito... cioè lui si era aperto questa volta, e quando l'ha scoperto ha detto, si incastra tutto allora. Effettivamente sì. Insomma, la mia domanda, ora sembra un'interrogazione, però nel senso, quanto ci sta in realtà Lampreda nella discografia della tua etichetta? Che è una bella domanda, perché no, che secondo me ci sta, Cioè. Sì, cioè che oggettivamente nell'immaginario della natura rientrano anche i suoni tribali dell'uomo, i suoni sì, più... che spesso è un po' la prima cosa che ci viene in mente. Infatti, no? E comunque tutta la ritualistica che se uno va indietro nel tempo, il rituale era spesso legato alla natura, quello dell'uomo, dalla danza della pioggia a quella del raccolto, no? Quindi comunque c'è un legame tra il rituale umano, senza poi voler escludere l'uomo dalla natura, lungi da me, anzi. E comunque tra questi rituali e la natura. E probabilmente è stato proprio quello, diciamo, il primo passo che ha fatto il mio orecchio verso una produzione che non c'entra molto con tutto il brand, diciamo, di biodiversità, che è sempre stato elettronico. Diciamo, anche qui si parla di un live, sempre all'Emerson sentito la prima volta, e mi sono infatuato del suo metodo di produzione del suono, poi anche io ho un progetto noise, quindi quando sento un'altra persona che fa noise, comunque un minimo di rumore, non noise inteso come genere musicale, comunque distorsioni, eccetera, mi si attiva subito l'orecchio. E poi voleva essere tanto un piccolo amo, mettiamola così, per dire potenzialmente sono aperto anche a questo. Certo. Diciamo, non rientra nella mia ricerca primaria, però per chiunque si approcci non abbia timore anche infatti a presentarsi come uno strumentale. E dopo, cioè, sì, qui in questo caso strumentale, ma dopo vedremo anche esempi diversi da cose che abbiamo ascoltato finora nella puntata. Comunque intanto ascoltiamoci Lampreda con Yattakam, presente appunto nella compilation. Aiuto. Ecco Tono. Dopo spiegherò anche cosa vuol dire, almeno si rimprimerà nella testa. Spiegacelo subito. Ecco Tono è in ecologia, cioè in realtà anche in ecologia, penso sia più paesaggistica. È diciamo la linea di confine tra due ecosistemi, tra due habitat. Quella parte, quella striscia, diciamo, di terreno fisico in cui tutte e due gli habitat sono presenti e si trovano elementi sia dell'uno che dell'altro, quindi proprio un punto di fusione, mettiamolo. Okay. E quindi è Lampreda. Non solo, sì, tutti quelli che sono lì, se uno va a sentire Compilation, passi da un punto all'altro e dici sono in un ecotono. Ok, ascoltiamoci l'ecotono di Lampreda che si chiama Yattakam. Thank you. scusatemi. E da questi ritmi incalzanti passiamo un po' a, ai ritmi tropicali di Nautilus Frank, che vi avevo già fatto ascoltare qualche puntata fa, appunto parlando del festival che ci sarebbe stato all'Emerson, e l'ho anche visto dal vivo, mi è piaciuto tanto. E non faceva propriamente le cose di questo disco che hai prodotto tu, che si chiama Morogoro Road. Secondo me è molto molto evocativo dei paesaggi della copertina, diciamo. Sì, diciamo Morogoro Road, poi di sicuro è stata un'esperienza differente per te ascoltare l'album e vedere il live. Sì, sì, ma mi è piaciuto nel suo isolazionismo, diciamo. sì, comunque sì, gli avevo detto fai qualcosa di più, così, diciamo, esplosivo, mettiamola su questi termini, che alla fine ha anche un'attività da DJ, non solo da produttore, quindi ho detto cerca di tirar fuori un po' tutto di te. Invece no, per l'album Biodiversità, Morogoro Road, è stato un lavoro anche abbastanza introspettivo, più che altro perché è nato dopo un viaggio effettivamente avvenuto in Africa, in questi posti che lui, di cui lui parla, insomma, di cui lui suona. E quindi, diciamo, era abbastanza fresco di esperienza e ha trovato l'aggancio per diciamo, realizzare il suo progetto. Peraltro me lo fece veramente in poco tempo, perché mi ricordo quando decisi di aprire la baracca, sì. E ho detto cavolo, devo uscire con qualcosa in mano, cioè non posso dire esisto e poi dopo inizio a fare, no? E quindi avevo programmato la prima uscita, che è Allegro, che è una raccolta, diciamo una compilation di vari artisti, e ho dato una scadenza, no? Ho detto io devo riuscire a finire tutto entro, e si apre entro l'11 dicembre. Sei molto rigoroso. Sì, sì. E quando ho detto questa cosa a Nautilus Frank, che è peraltro compagno di quartiere, nel senso vicino di casa. Quindi di Firenze. Sì, sì. E tra l'altro ho visto nei pezzi che fa, ho visti sul SoundCloud, tante cose sono avvicinabili all'hip hop, trip hop, dub, sì, sì. Derivati, e si sente tra l'altro anche in questo disco. Però messi proprio nella giusta dose, diciamo. Cioè, io gli ho detto di astrarsi un po' da quel che è sempre stato, senza snaturare nulla, poi diciamo è venuto tutta farina del suo sacco. Comunque, per concludere velocemente la storia, gli avevo detto ho un mese di tempo prima di aprire. Lui mi ha detto devo uscire con te subito, e quindi lui in un mese si è messo lì e ha fatto tutto veramente. Io gli mettevo anche ansia, cioè, ma Come va? A che punto siamo? Tra l'altro è valido come disco. Cioè, io penso quando senti l'altro pezzo, poi senti tutto l'album, insomma, è proprio bello, cioè, sinceramente. Ma anche uno di quelli ha avuto più risonanza, è piaciuto veramente tanto anche al pubblico, tra virgolette, insomma. E lui è uscito in che forma per la tua etichetta? Audio cassetta. E infatti anche qui è formato digitale, ovviamente. Vabbè, sì, come sì. Tutte le produzioni che hai fatto, giusto? Sì, sì, tutto esiste anche in digitale, che vuole essere un po' la prima, non dico la prima scelta perché ognuno ha le proprie priorità, però diciamo il digitale ormai con i tempi che corrono è la forma più avanguardistica, mettiamola così. Digitale è con tutta la sua buona qualità che si porta dietro se il prodotto è fatto bene, e tutta la semplicità nel reperirlo, mi sembra quasi senza accessibile. Sì, sì, senza voler dire nulla poi a chi continua a fare solo fisica, però è limitante, almeno dal mio punto di vista, no? Non usufruirne, per quanto mi faccia accostare con audiocassette o altri sistemi abbastanza retro. Tra l'altro sono molto curate le produzioni, ma regalato un paio di cose, soprattutto una è proprio dentro una bustina, credo, di cosa è fatta? Di USA. È questo split tra Modo Coagon e X-Tematico, X, insomma, così. Che non me l'ero neanche io mai chiesto, pur conoscendo da tanto tempo sto ragazzo, non mi sono mai chiesto come si pronuncia. Dentro c'è dalla toppetta a fogliettini vari, insomma, poi me lo devo guardare bene, ma c'è biglietti da visita quasi, insomma, c'è un sacco di roba bellina e un mini CD di quelli piccoli che una volta un po' andavano, c'era qualche produzione sperimentale su questo tipo di supporto, che è volutamente anche scomodo perché boia, tanti lettori non lo possono leggere. Si deve avere il centrino dentro il lettore per... Si parla di pure estetica. Comunque, questo è il suono di Nautilus Frank per Biodiversità, appunto con il suo disco, lo ricordiamo, Morogoro Road, e questo è Tropico numero 4. Sonorità e su ritmi da un tempo, anche il prossimo pezzo suona più o meno tra il dub e il trip hop di Panacef Mishima. Allora, aspetta, perché okay, mi sa che te hai ascoltato, forse sì, quello, cioè, vecchio che si fa, che è passato. Questo è tutto perché, ok, che le, sì, sonorità ci siamo. Infatti, Nautilus Frank ha fatto anche un lavoro insieme, che è quello che fu passato la volta scorsa. Okay. Questo è abbastanza più frenetico. Allora, sempre facciamo così: ce l'ascoltiamo perché è corto e poi ne parliamo. Perfetto. Che dici? Vai. Panacef Mishima si chiama Ghetto Fantasy, e poi, appunto, dopo averlo ascoltato, se ne parla. Thank you. chi è Panacev Mishima? Ah, Panacev Mishima e che gli è Sergio, anche lui è una persona conosciuta grazie a Biodiversità, conosciuta appena aperti i battenti, non mi ricordo neanche come, anche lì l'internet magico ci ha messo in connessione in qualche modo, e mi ricordo di lì a poco ci siamo subito visti perché lui venne in vacanza a Firenze, lui è di Bari. E, ci siamo visti e ha suonato nel mio salotto per, cioè in camera mia, per una live stream Biodiversità, unita alla sua etichetta che è Purwool Garden, per chiunque fosse interessato a queste sonorità o anche più noise. Comunque mi è sembrata, l'ho guardata un po' oggi, quello che ho trovato, cioè, che è molto difficile se proprio non ci stai dentro questa roba, e mi sembrava tutta che avesse a che fare con qualcosa di culture giapponesi, sì. E in effetti anche un po' questo brano ricorda un po' sia alcune stilistiche giapponesi di glitch, diciamo con suoni un po' allegri e colorati, diciamo, sia per le copertine che mi sembrava avessero qualcosa a che fare anche con gli sketch giapponesi. Sì, sì, poi il suo lavoro è molto improntato sull'estetica giapponese, e anche il lavoro che abbiamo fatto insieme per Biodiversità, ho cercato, io non dico non ho che odio per i giapponesi, perché non sarebbe assolutamente vero, però l'immaginario anime eccetera non sono per nulla un fan, però ho cercato comunque di rendere il suo lavoro più giappo in modo più giappo che riuscivo. Quindi sono riuscito a dargli un'eleganza tipica delle uscite giapponesi. Hai fatto di necessità virtù anche lui. Sì, sì. Lavorando. Comunque grande Sergio, controllate anche un pochino la sua etichetta, che più o meno siamo nati nello stesso periodo e ci siamo sempre supportati a vicenda. Quindi tutte etichette giovani, e anche quello che ci hai portato prevalentemente è fatto da persone giovanissime, diciamo nate neanche negli anni 80 ma negli anni 90. Io penso che quasi il 90% della roba. Fa piacere che è, diciamo, il nuovissimo assalto ai timpani, cioè la nuova, diciamo, ondata elettronica, o ovviamente una piccola parte della nuova ondata, però ecco, già ci fa capire un po' cosa quale sarà un po' il futuro, e insomma, se è questo non è niente male, diciamo. Piccoli bocconi cerco di darli. Di sicuro non considero tutta la roba che, diciamo, esce da Biodiversità avanguardia. No, no, vabbè, elettronica. Erano altre cose, l'avanguardia sì. Poi anche avanguardia pop, mettiamola come si vuol dire, comunque roba veramente nuova, mettiamola così, futuristica. Diciamo, c'è un che, ho sempre cercato di forse una delle poche cose ho sempre cercato di dire ai musicisti con cui ho lavorato, cerca di guardare avanti, okay. Quando fai, anche se fai una cosa che ha dei canoni già sentiti, anche se ti basi su dei preconcetti già esistenti, te spacca tutto e poi riassembla guardando al futuro. Certo, anche mi sembra questo pezzo mi sembra bello spezzettato, ricomposto, infatti. Esatto. E, vi ricordo un attimo i credits di Radio Wombat. Potete appunto trovare tutte le trasmissioni sul sito wombat.noblogs.org. Potete scriverci a postwombat@insiberia.net. Poi c'è un Facebook e un Twitter, usati un po' meno, per, diciamo, trovare altri canali, come dicevo a Pietro, rispetto ai social network, diciamo. È anche in AM, per quanto difficile farla risultare efficiente, appunto alla frequenza 1359 o 1359, e quindi se avete la fortuna di trovarla, potete ascoltarvela pure in macchina, diciamo. E, mandateci appunto delle critiche o delle proposte sui nostri programmi, ma anche se avete idea di fare programmi nuovi, insomma, non vergognatevi che c'è sempre bisogno di nuove leve, appunto. E tra l'altro nel sito vero e proprio sul NoBlogs di Radio Wombat, oltre al palinsesto, trovate, quindi anche con i giorni delle repliche settimanali, trovate anche tutti i podcast dall'inizio, dalla nascita delle radio fino al giorno in cui andate a ricercare un podcast, troverete tutto quello che è stato fatto. Quindi secondo me è una vera e propria miniera di contenuti, sia a livello sociale, di informazione, ma anche a livello musicale, che ce n'è un po' per tutti i gusti, diciamo. Andando avanti, arriviamo alla parte, diciamo, un po' finale della puntata, che è anche quella ovviamente più, si può dire, pesante, più sì, sperimentale, diciamo. Non che gli altri pezzi siano, diciamo, pop. E volevo iniziare appunto l'ultima parte proprio con il tuo progetto, che mi pare che è dal 2012 che hai, non mi ricordo. Sì, poi diciamo si è voluto, nel 2016 ho iniziato a lavorare sul serio, mettiamolo così. Va bene. E si chiama Fossa del Rumore, se ce ne vuoi parlare. Allora, Fossa del Rumore nasce per appunto con un'idea nel 2012 di... Come nascono tutti questi progetti di musica sperimentale, anche più spinta di quelle che sentiremo oggi, nasce con un nihilismo totale per la musica, no? Che a quell'età è facile, diciamo, trovare qualcosa con cui incazzarsi. Quindi ho iniziato a 17 anni, tipo. Poi nel 2016 si è concretizzato in qualcosa di un pochino più composto e quindi anche con delle produzioni. È un lavoro che lavora al limite tra l'ecologia acustica, l'ambient, la dark ambient, la techno e la noise. Questi, diciamo, sono i suoi... Quindi, insomma, una bella fetta, diciamo. Una bella fetta, sì. Il fil rouge è sempre, diciamo, noise e riverberi, mettiamola così. Esatto. Quello si può trovare un po' in tutti i lavori. Materiale difficile, insomma. Sì, se, diciamo, come anche un po' tutto biodiversità, è materiale difficile, che però cerco di mettere in chiave un po' più user-friendly, mettiamola così. Cioè, non è così... Alcune cose ammetto che non sono troppo da orecchio casuale, insomma. Però altre, tipo anche questa che andremo a sentire, con un lavoro con Marco Squillace. Peraltro stiamo lavorando anche a un nuovo... Qui si spoilerà un pochino, a un nuovo progetto. Certo, dovete, cioè devi. Un nuovo progetto che non ha ancora né nome. No, in realtà un nome ce l'avrebbe, però nulla di veramente concreto, ma che in questa settimana ci ha... riempito la testa. Abbiamo lavorato veramente tanto, abbiamo già fatto 3 tracce in una settimana, cioè siamo proprio esplosi, non mi succedeva da un bel po'. Che quello sarà techno più che altro, quindi giusto per far vedere un po' tutte le sfaccettature. Certo. E intanto lo mettiamo. È una cosa ovviamente che è uscita per Biodiversità, è la traccia live numero 3, non so da quale album. Improvvisazione. Erano tutte, okay, per l'appunto improvvisazioni, tipo delle session, sì, insieme a Marco Squillace. Adesso noi andiamo ad ascoltarci Fossa del Rumore. Questo è del 2016 o 17, non ricordo più neanche io. Va bene, insomma, un po', sì, po' massimo tempo 3 anni fa. Insomma, 3 anni fa. Fossa del Rumore. Thank you. Questo è, diciamo, il tuo suono, ovvero Fasse il Rumore, il tuo progetto, diciamo, principale. E ti volevo chiedere come solitamente ottieni questi suoni, se fai un lavoro solo di computer o utilizzi dei synth. Insomma, volevo sapere qualcosa riguardo al tuo approccio con l'elettronica, ecco. Allora, nasce tutto con un lavoro anche di autocostruzione di circuiti, soprattutto quando era più cattivo il suono. Okay. Quindi proprio circuiti, intermittenze, mi costruivo un po' tutto in casa, ci attaccavo sopra qualche riverbero e delay e sparavo a palla. Poi piano piano si è evoluto con, cavolo, voglio creare qualcosa di più melodico o anche più complesso, e quindi ho iniziato a comprare i primi sintetizzatori. Adesso mi ritrovo con un modulare, e quindi sono uno di quelli che spippola con tutti i cavetti, cioè vari sintetizzatori, okay, interconnessi. Però non quindi voglio... il suono è cambiato molto rispetto a questo brano che abbiamo sentito. Questo è un intermezzo, questo era post odio puro e verso una composizione più, diciamo, strumentale. Poi non voglio mai chiudere gli occhi, anzi sto cercando di aprire sempre di più al digitale, perché comunque, come dicevo prima, occhio sempre avanti, quindi adesso sto cercando di mescolare il più possibile queste due, diciamo, realtà, quella digitale e quella analogica, anche con altri progetti. E poi ora non mi mettere in carico, perché negli ultimi 2 anni ho creato così tanti alias che mi sento ridicolo, quindi... E senti, invece sul brano che ascolteremo ora, lui si chiama Project 22, che mi hai detto che è un ragazzo inglese, mm-hmm, che fa sia musica dalla drum and bass alla musica per da film, diciamo, per colonna sonora. Sì. Cioè di ispirazione cinematografica, sì, sì, diciamo. E poi anche gestisce un'etichetta che si chiama Groundwork Recordings, mm-hmm, presumo inglese. Non sono ancora riuscito a vedere cosa propone. E, insomma, è uscito per questo Allegro che mi hai regalato, tra l'altro, e ti ringrazio anche per questo CD con questa copertina, con un passerotto. È una cincia allegra. Una cincia allegra. E, insomma, è molto particolare da vedere, è una mista, tutti i brani si chiamano Allegro, però fatti da varie persone, per cui, insomma, se vuoi aggiungere qualcosa, che non saprei perché, insomma, non hai dato anche ora. Sì, sì, sì. Vabbè, il concetto base è nato mentre leggevo un libro di musica, per l'appunto, e parlava delle nuove frontiere della musica, insomma, cose, boh, non mi ricordo neanche più cos'era in realtà. Comunque un capitolo parlava di cosa vuol dire fare featuring nel 2015, okay, e diceva, cavolo, io vengo dagli anni, cioè l'autore veniva dagli anni 80-70, diceva il featuring era tutto quello sbatti di, no, di trovarsi eccetera, adesso è molto più semplice. È molto più semplice, questo vuol dire poter veramente fare featuring con chiunque. Lui dice, adesso sto facendo featuring con giapponesi, questo, quest'altro, no? E quindi lui era super entusiasta. E da quell'idea mi è venuto, prima con Isolato, poi con Allegro e poi spero con un terzo e ultimo capitolo, di creare queste piccole patch, diciamo, di 2 minuti, che sono dei campioni semplicissimi, droni di 2 minuti, mandarli a giro per l'internet, per il web, e chiunque può pigliarlo e farci quello che vuole, distruggerlo, remixarlo, usare solo 1 secondo e poi fare quello che vuole, completa, proprio estrema libertà. E poi ho selezionato un po' tutti i lavori, ho fatto questa compilation di 10 pezzi. È una bella idea. E appunto, mi dicevi del futuro, ma ti faccio la domanda di rito, che serve anche un po' per pubblicizzare ulteriormente la tua etichetta. Insomma, cosa ci aspettiamo da Biodiversità per i prossimi mesi o anni? Dico mesi perché già in un anno e poco più hai fatto uscire tanta roba. Allora, prossimi mesi, diciamo più o meno la cadenza che ho in testa è sempre tipo bimensile, poi non si sa mai, ogni tanto è di più, ogni tanto poche volte è di meno, e quindi guardiamo di 2 mesi in 2 mesi in avanti. E ci sono già due uscite confermate, una in sviluppo. E si ritornerà un po' sul noise elettroacustico e un'uscita, non voglio dire techno perché come sempre non siamo mai sicuri dei generi che si produce, però con sonorità molto più techno, quindi molto più dance, e queste sono già ben fisse in testa. Ci sarà di sicuro qualche evento a Firenze, quindi sintonizzatevi poi su pagine Facebook, che alla fine uso quella per comunicare. Sono in previsione veramente corta delle magliette in tiratura limitata, perché fatta a mano in serigrafia, quindi anche lo sbatti eccetera, sì. Così cerco di fare una cosa in piccolo per quanto penso di riuscire a spacciarne. E poi l'ultima chicca la lancerò proprio prima dell'ultimo pezzo, che è la cosa veramente che dall'oggi al domani si potrà vedere. Bene, e intanto allora noi ci sentiamo Project 22, Allegro, una versione Allegro tratta dalla compilation Allegro, che mi sa che è una delle prime che hai fatto, tra l'altro. La prima, quando è nato tutto, è nato con questo. Ok, e quindi questo è stato un po' l'inizio. Thank you. quasi Witch House. Questo è molto cinematografico. Sì, è un bel pezzo. Infatti mi serve, l'ha voluto chiamare Cinematic Remix. E, è vero, tra parentesi, come cosa. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, spero che vi sia piaciuta. In ogni caso è una proposta di roba nuovissima, diciamo, per cui è comunque valida e dà spunti anche per ascoltare tantissimi personaggi che gravitano intorno all'etichetta biodiversità, che è nata da poco ma ha sfornato ormai quante produzioni, se te le ricordi. Se si esclude quelle che esistevano già prima di aprire, quindi da quando proprio ho aperto, sono 4 in quest'anno più 2 compilation. Ok, e quindi già tantine, insomma. E l'ultimo pezzo invece è di Luisa Lemgruber. Si chiama Todo Que Há Gira, quindi mi immagino che è brasiliana, infatti di Rio. Sì, anche se il cognome sembra tedesco, infatti poi glielo chiederò perché me l'hanno fatto notare da poco, ma come brasiliano c'è un cognome tedesco. E di questo pezzo volevo dire un'ultima cosa prima di lasciarvi all'ascolto e alla fine della puntata. Questo pezzo fa parte di una compilation che uscirà il 10 febbraio, quindi stavolta ci sarà una data, e che sono 13 brani di registrazioni ambientali da tutto il mondo, cioè Messico, Etiopia, Giappone, Inghilterra, Brasile in questo caso, e sono field recording quasi puri con un tocco di artistico da parte di ogni compositore, ma più o meno puri di natura. E mi sembra che sia proprio faccia proprio il caso giusto per l'etichetta che si chiama biodiversità. Infatti, prima l'altro. O poi avrei dovuto farlo. Prima o poi sì, era una cosa che toccava. E poi i field recording sono sempre molto molto interessanti perché veramente hanno a che fare proprio con la materia vera e propria. E qui si rientra anche al concetto all'inizio digitale, esatto. e natura. Esatto. Per me questa è anche nata una cosa di progetto di digitalizzare ciò che è adesso nel 2018, quindi comunque una cosa fatta nel 2018. I rimandi, i giochi tra natura e elettronica possono essere infiniti o possono essere un oroboro che si morde la coda, diciamo, e noi ci salutiamo, grazie per averci ascoltato, grazie Pietro per essere venuto in radio e alla prossima. Mettiamo il field recording che è lunghino, vediamo se tenerlo tutto. Io di solito tengo tutto, per cui buon ascolto e rilassatevi con Luisa Lemgruber, Todo Que Há Gira. Ha ha ha!